Giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Autopsia sul corpo del detenuto morto, probabilmente di overdose, nel carcere triestino del Coroneo. L'incarico sarà conferito lunedì. L'intenzione della procura sarebbe di svolgere celermente le indagini necessarie, anche per ricostruire tutte le fasi della rivolta scoppiata giovedì sera. Dopo l'ondata di maltempo di ieri si è rimesso in movimento lo smottamento di Cazzaso nel comune di Tolmezzo, rimossi tutti gli alberi che erano stati abbattuti dalle raffiche di vento, riaperte tutte le strade, soprattutto nell'area del Pordenonese. La situazione degli organici nella sanità triestina, le ferie del personale aumentano i disagi dovuti alla carenza di infermieri OSS e tecnici. Giovedì scorso un incontro fra Asugi e i sindacati non aveva trovato una via d'uscita. Mi resta un solo dente e cerco di riavvitarlo, e il concerto di Elio e le Storie Tese è andato in scena ieri sera a Palmanova. Tra risate e grandi classici della band, ospiti speciali dei ragazzi della Nazionale di Softball. Buongiorno dalla testata giornalistica regionale, ai microfoni Dario Ronzoni e Antonio Cagliazza. Tempi rapidi per le indagini sulla rivolta nel carcere del Coroneo di giovedì sera. Lunedì sarà affidato l'incarico al medico legale affinché esegua l'autopsia sul corpo del detenuto morto per una probabile overdose da metadone, il medicinale prelevato dall'infermeria che era stata assaltata. Sarà disposta in via ufficiale all'inizio della prossima settimana da parte della PM Chiara De Grassi l'autopsia sul cadavere di Zdenko Feriancic, il detenuto 48enne trovato morto nel carcere del Coroneo venerdì pomeriggio. Una delle ipotesi sulle cause del decesso sarebbe l'overdose di metadone che, se accertata, sarebbe da collegare alla rivolta scoppiata nel penitenziario il giorno precedente, quando alcuni dei reclusi avevano saccheggiato l'infermeria. Altri due detenuti, portati venerdì all'ospedale di Cattinara sempre per overdose, sono ancora ricoverati, ma le loro condizioni sono stabili e non sono in pericolo di vita. Nel frattempo, oltre che sulla morte di Feriancic, la procura di Trieste sta indagando per chiarire la dinamica della rivolta. Venerdì sono stati sentiti il direttore del carcere, Graziano Puia, e la comandante degli agenti di custodia del Coroneo, mentre il magistrato di sorveglianza ha interrogato un elenco di persone che gli è stato fornito. Le condizioni insostenibili della struttura carceraria, dove sono ristrette 260 persone rispetto a una capacità di 140, era denunciata da tempo da avvocati, garanti dei detenuti e rappresentanti della polizia penitenziaria. Oltre al sovraffollamento, il problema principale sono gli spazi ristretti e la perdurante presenza di cimici, punti critici riscontrati anche da Mauro Palma, ex garante nazionale dei detenuti, che più volte ha visitato il carcere triestino, l'ultima nell'inverno scorso. Un carcere molto affollato, e molto affollato anche rispetto a persone che sono anche per poco tempo in custodia cautelare. Il secondo problema è quello che affligge quell'istituto, che è il problema delle cimici, che è difficilissimo in qualche modo estirpare in una situazione affollata, di grande caldo, di pochi spazi, e anche con questi insetti determina un'esasperazione che è molto forte. Trieste, Daniele Letti, TGR Friuli Venezia Giulia. Molti alberi caduti e ramaglie finite sulle strade in alcune zone del Friuli e di Ronchi dei Legionari. Un traliccio telefonico abbattuto nel comune di Corno di Rosazzo su strada Abbazia. Nella stessa serata di ieri il transito era stato ripristinato su tutte le strade. La Protezione Civile segnala la riattivazione della frana di Cazzaso in comune di Tolmezzo, con il superamento della prima soglia di allertamento per la porzione più a monte dello smottamento. Sabato da Bollino Rosso sulla A4 in direzione Trieste, solo stamattina sulla A23 in direzione Palmanova e sulla A57 la tangenziale di Mestre in direzione di Trieste. Lo comunica Autostrade Alto Adriatico. Previsto traffico sostenuto, bollino giallo, sulla A4 in direzione Venezia fino al pomeriggio e sulla A28 in direzione Portogruaro per tutta la giornata. Si prevede il passaggio di circa 188.000 veicoli su tutta la rete gestita da Autostrade Alto Adriatico, di cui 21.000 all'uscita della barriera di Trieste-Lisert, 18.000 a Latisana, 12.000 a Villesse, 11.000 a San Donà. Domani bollino giallo sulla 4 in entrambe le direzioni alla mattina e al pomeriggio e sulla 28 in direzione di Portogruaro, traffico sostenuto di mattina. Circa 173.000 i mezzi in transito previsti domani. E ora diamo uno sguardo al tempo, con cielo da sereno a poco nuvoloso su pianura e costa, coperto in montagna. Queste le temperature registrate alle 11. A Trieste 29 gradi, con mare poco mosso, con temperatura anche quella di 29 gradi. A Gorizia 32 gradi, a Udine 29 gradi e mezzo, a Pordenone 30 gradi. A Tolmezzo 25, a Forendi sopra 24, a Tarvisio 21, Piancavallo 20, a Sappada 19, sul Monte Zoncolana 15 gradi, a Grado 30 gradi, a Lignano 28 gradi e mezzo, la temperatura del mare è di 29 gradi e 5 decimi. Ecco le previsioni, dal pomeriggio sarà possibile qualche rovescio o qualche temporale, più probabili sulla zona montana e sulle zone orientali. Domani, domenica, su pianura e costa cielo in prevalenza sereno, sui monti poco nuvoloso con maggiore nuvolosità pomeridiana verso il cadore, temperature nuovamente in aumento, ma con meno afa, 20 a regime di brezza. Parliamo di sanità. La carenza di personale negli ospedali non è una novità, ma ora che sono iniziate le ferie estive le criticità crescono. Infermieri e OSS che saltano riposi e giornate di ferie, duplicano i turni notturni. Inevitabilmente il personale si ammala e sta a casa, aggravando ulteriormente la situazione. Giovedì scorso si è tenuto presso l'azienda sanitaria di Trieste e Gorizia, ha convocato i sindacati. Le soluzioni sembrano lontane. Un'ossa a disposizione per 41 pazienti la notte, sanitari che perdono ore a cercare parcheggio quotidianamente, corsi di specializzazione fatti per far carriera ma mai valorizzati, nei pronto soccorso e nei centri di salute mentale il rischio continuo di essere aggrediti dai pazienti, risultato fino a 7 persone che si licenziano in meno di 24 ore, succede negli ospedali di Asugi, sindacato esasperato per la carenza di personale che si aggrava in pieno periodo estivo, i carichi di lavoro sono talmente pesanti che aumentano gli infortuni e le malattie, quindi peggiora la situazione, un circolo vizioso. Siamo alla sede della CISD, funzione pubblica, 48 ore dall'incontro avvenuto con Asugi. Giorgio Jurkic, dirigente sindacale. Succede che quotidianamente infermieri, OSS, personale del comparto tutto vi chiamino dicendo ce ne andiamo. Abbiamo ricevuto qualche settimana fa, solo in una giornata, noi 7 telefonate di personale che vuole licenziarsi, anzi si licenzierà con agosto e settembre, cose che in passato difficilmente succedevano, e purtroppo non si licenziano solo gli infermieri, ma iniziano a licenziarsi anche i tecnici di radiologia, tecnici di laboratorio, assistenti sociali e fisioterapisti. Per trattenerli concretamente che cosa servono? Più soldi? Più soldi servono certamente, ma questo purtroppo è una cosa che viene risolta a livello nazionale. La cosa che serve principalmente è rendere l'ambiente lavorativo più rilassato e degno di un ambiente lavorativo rilassante, anche perché stiamo lavorando con la sanità e con la sofferenza. Quindi bisogna cercare di fidelizzare il personale presso l'Asugi, cosa che in questo momento non si fa. Banalmente il parcheggio non c'è. Il parcheggio all'ospedale maggiore non c'è, c'è una convenzione che poi la convenzione non c'è più, e poi siamo preoccupati anche per la situazione di Catinara, perché Catinara adesso hanno fatto un grande parcheggio al polo cardiologico, però tra qualche mese verrà chiuso il parcheggio dipendenti, ci chiediamo dove posteggeranno i dipendenti. Avete fatto un incontro con Asugi, la risposta qual è stata? Ma la risposta è stata che la direzione apre i bandi per tutte le professionalità, però la risposta del personale che partecipa ai bandi non c'è. Trieste, Anna Vitaliani, TGR Friuli Venezia Giulia. Economia, calano le assunzioni in luglio, il terziario resta trainante, continua a mancare la manodopera qualificata. È l'analisi del bollettino di Excelsior Union Camere. Più di 10.000 assunzioni nel mese di luglio in Friuli Venezia Giulia, 7.000 delle quali nel terziario. Ma inoltre la metà dei casi le aziende faticheranno a trovare i profili richiesti. E quanto emerge dall'ultimo bollettino Excelsior Union Camere, realizzato dal Centro Studi della Camera di Commercio di Pordenone Udine. Le previsioni di assunzione risultano comunque in flessione se confrontate con gli stessi periodi dello scorso anno. Nel 21% dei casi si tratterà di assunzioni con contratto a tempo indeterminato o di apprendistato, mentre il 79% firmerà un contratto a termine. Quanto ai settori e alla tipologia di aziende, prevalgono il settore dei servizi con il 71% e le imprese con meno di 50 dipendenti, il 57%. Un dato che secondo il presidente della Camera di Commercio, Giovanni Da Pozzo, sottolinea come il terziario, fatto anche da moltissime PMI, sia quello che traina anche dal punto di vista della richiesta di personale e il turismo in particolare in questa stagione. Basti pensare che i servizi di alloggio e ristorazione concentreranno da soli 2.410 assunzioni. Un terzo degli assunti saranno under 30, il 22% personale immigrato. In 55 casi su 100 le imprese prevedono di avere difficoltà a trovare i profili desiderati. Come sempre sono le alte specializzazioni a essere più difficili da reperire. Tra il personale dirigenziale, i tecnici in campo ingegneristico, i tecnici della salute, i tecnici della gestione dei processi produttivi di beni e servizi, gli ingegneri. Ma mancano anche i docenti di scuola primaria e preprimaria e permane una certa difficoltà a trovare addetti alla ristorazione e professionisti qualificati nei servizi sanitari e sociali. E ancora tecnici fonditori e meccanici e operai specializzati nelle costruzioni. Trieste, Lara Zani, TGR Friuli Venezia Giulia. Anche per il 2024 la regione stanzia quasi 2 milioni e mezzo di euro a favore dell'avvio di aziende agricole guidate da giovani imprenditori. Il sostegno è concesso in forma di premio pari a 70.000 euro a chi decida di avviare un'attività agricola nelle aree rurali, abbia meno di 41 anni e presenti un business plan per lo sviluppo dell'attività. La dotazione complessiva del bando è di 2.450.000 euro. Le domande devono essere presentate in formato elettronico sul portale del sistema informativo disponibile nel sito internet www.opr.fvg.it entro il 15 ottobre. Sanzioni per 60.000 euro e sospensione di due attività. I carabinieri dell'Ispettorato del Lavoro di Trieste, con la collaborazione dei carabinieri di Via Hermet, hanno controllato 30 lavoratori di diverse attività della ristorazione. In un ristorante etnico hanno individuato 3 lavoratori in nero, di cui uno minorenne. Per questo è stata disposta la sospensione dell'attività. In una pizzeria hanno accertato l'assenza di formazione di sicurezza nei luoghi di lavoro di 2 dipendenti. In un'altra attività, oltre all'assenza di formazione di uno dei lavoratori, è stato trovato un impianto di videosorveglianza non autorizzato, usato per controllare a distanza i dipendenti. L'ultima attività controllata ha ricevuto un provvedimento di sospensione per l'assenza del documento di valutazione dei rischi. Due donne sono state aggredite su un autobus delle linee urbane di Trieste. Protagonista un uomo di 50 anni senza fissa dimora, cittadino romeno, con precedenti di polizia. Il fatto è avvenuto lo scorso 28 giugno, come hanno riferito i carabinieri del comando cittadino, che sono intervenuti per arrestare l'aggressore. Senza alcun motivo, l'uomo avrebbe affrontato le donne prendendo a schiaffi una delle due, che per difendersi ha estratto uno spray al peperoncino. A quel punto il conducente ha fermato l'autobus. Di fronte carabinieri, l'uomo ha rifiutato di fornire le generalità, è stato denunciato a piede libero per i reati di percosse e minaccia. Addosso gli sono stati trovati 4 telefoni cellulari, dei quali non ha saputo chiarire la provenienza, da qui un'ulteriore denuncia per ricettazione. A Pordenone, dopo la querel sui tigli, ne nasce una sul futuro del Parco del Valentino. Il grande polmone verde cittadino potrebbe diventare, nelle intenzioni del comune, un'area attrezzata per i ragazzi e per le famiglie, un cosiddetto parco avventura, un'ipotesi che non trova favorevoli i residenti. Dopo la battaglia sui tigli dell'ex fiera, al centro del dibattito a Pordenone c'è ora il parco di San Valentino e in particolare l'impatto sul verde dei grandi concerti. E così, chiusa la prima fase degli eventi estivi, un gruppo di cittadini ha voluto accendere i riflettori sulla situazione del prato dopo le manifestazioni e dire no ai progetti dell'amministrazione sul parco, che comprendono fra l'altro la realizzazione di un rampy park. Alessandra D'Incecco, il Tiglio Verde. L'erba non c'è più, era una distesa di fango, questi concerti hanno rovinato tutto. Noi non siamo contro, non siamo sempre quelle contro, vogliamo preservare un parco. Questi concerti, queste cose impattanti per l'ambiente, per gli animali, potrebbero essere fatti da qualche altra parte. Per l'amministrazione comunale, tuttavia, si tratta di una situazione temporanea. Alberto Parigi, sindaco. Non c'è un danno permanente e che la sinistra Pordenone si è ridotta a contestare il calpestio dell'erba. L'erba semplicemente viene ripristinata. Una cosa è un bosco in montagna, una cosa è un parco cittadino. Ma il dibattito è più ampio e riguarda il futuro del parco e più in generale il verde in città. Luigina Perosa, il Tiglio Verde. Vogliamo far capire la nostra totale distanza da questi modelli culturali che cercano di rendere ogni angolo un luogo di eventi, di mirabilie. Non è Hyde Park di Londra, e quello è il nostro parco urbano, un polmone grande che vogliamo conservarci. Replica Parigi. Ci sono due modelli di città, una quella quando governavano loro, che Pordenone era soprannominata Pordenoia, e una quella che vogliamo noi, di che riesce a richiamare migliaia e migliaia di persone tramite concerti, cultura e intrattenimento. Pordenone, Lara Zani, TGR Friuli Venezia Giulia. Ricordare la tragedia della Grande Guerra per cogliere a fondo lo spirito transfrontaliero di oggi che caratterizza la città che si appresta a diventare capitale europea della cultura. E questo è l'obiettivo della mostra dal titolo Memorie di un museo, aperta a Palazzo Athens Petzenstein a Gorizia. Un secolo di racconto della Grande Guerra, dallo sciovinismo tipico dell'Italia fascista fino alla valorizzazione di una memoria condivisa dei popoli mitteleuropei, mettendo al centro la comune tragedia umana dei soldati italiani e austro-ungarici sul fronte dell'Isonzo. È la mostra Memorie di un museo 1924-2024 a Palazzo Athens Petzenstein a Gorizia, che ripercorre gli allestimenti del museo dedicato al primo conflitto mondiale, dalla nascita 100 anni fa col nome di Museo della Redenzione fino allo spirito transfrontaliero di oggi. Alessandra Martina, curatrice della mostra. Vediamo l'allestimento, per esempio, del 1938, dove le indicazioni venivano direttamente in pratica dal governo centrale attraverso il prefetto. Altre volte pare un po' il museo va avanti un po' distaccato da quello che è la realtà invece molto vivace degli anni fino agli anni 50-60, dove la città di Gorizia inizia ad aprirsi agli stati, ai popoli che erano stati assieme nella Mitteleuropa. La mostra anticipa la riapertura il prossimo febbraio del nuovo allestimento del Museo della Grande Guerra, pensato appunto come un museo per l'Europa. Raffaella Sgubin, direttrice dei Musei Provinciali di Gorizia. La sede di Borgo Castello è interessata da importanti lavori proprio in vista del 2025 con l'abbattimento delle barriere architettoniche. Ecco, quindi sarà un museo doppiamente aperto. All'interno del percorso espositivo anche un'efficace installazione immersiva. Matteo Tora Cellini di Camera Nebbia. È un'installazione interattiva ed immersiva che ripercorre gli allestimenti del passato del Museo della Guerra. Quindi è una maniera per viaggiare nel tempo e nello spazio. Nel tempo e nello spazio, ma anche con un cambio di paradigma. Il visitatore non è più uno spettatore passivo, ma è quasi un attore che genera immagini e soprattutto le condivide in una visione condivisa attraverso la proiezione. Gorizia, Lorenzo Gerlinzoni, TGR Friuli Venezia Giulia. 2 ore di musica e di spettacolo, 2000 spettatori, tante risate, il concerto di Elio e le storie tese dal titolo Mi resta un solo dente e cerco di riavvitarlo, andato ieri in scena a Palmanova. Non sono mancati i brani classici e, a sorpresa, anche lo sport, con la nazionale italiana di softball. Sentiamo perché. La storica band milanese, conosciuta per il suo stile inconfondibile fatto di rock demenziale e progressivo, nutre una fortissima passione per il baseball, che trova la sua declinazione femminile nel softball. Allora, quale miglior modo di unire le due passioni, mescolando il tour estivo con l'imminente inizio della fase finale della Coppa del Mondo femminile di softball a Castions di Strada dal 15 al 20 luglio. Ospiti d'onore le ragazze della nazionale italiana. 2000 le presenze in Piazza Grande per l'appuntamento con Elio e le storie tese. Settima data del tour, mi resta un solo dente e cerco di riavvitarlo. Ed evento inaugurale della rassegna palmarina Estate di Stella. Aspettate, questo è un equivoco, ci provo oggi a discolparsi. Gli Eli, dopo essersi presi una pausa di riflessione nel 2018, sono ripartiti nel 2023 con un tour nei teatri. 40 date sold out e 60.000 biglietti venduti. Durante le oltre 2 ore di concerto non sono mancati i classici. Prossimo appuntamento con Estate di Stelle sarà giovedì 25 luglio con il concerto di Umberto Tozzi. Andrea Marusic, TGR Friuli Venezia Giulia. Qualche notizia di sport: l'Udinese torna in campo per la sua prima amichevole stagionale affrontando gli sloveni del Biglie che giocano nella seconda divisione. La partita, che doveva tenersi a Fontanafredda, si disputerà invece a Gorizia allo stadio Bearzot alle 19. Per i tifosi è la prima occasione per vedere all'opera il nuovo allenatore Kostas Runjanič. Il costo del biglietto è di 10 euro con riduzioni a 5 per under 18, donne e diversamente abili. Mercoledì 17 i bianconeri affronteranno sempre alle 19 l'NK Istra della Serie A croata. L'incontro si svolgerà a Kodroipo. Dal 18 poi la squadra sarà in ritiro a Bad Kleinkirchheim fino al 31 luglio. Costo del biglietto 5 euro, gratis per gli under 16. Tennis, semifinali senza italiani nel torneo di tennis Città di Trieste che si tengono nel pomeriggio a Padriciano. Ieri Enrico Dalla Valle ha perso contro l'argentino Gomez per 6-3 e 6-4, fuori anche Francesco Maestrelli, sconfitto anche lui in due set per 6-2 e 6-1 dal portoghese Rocha. L'incontro tra i due è in programma dopo le 14. Lo spagnolo Rocha Battaglia ha battuto il francese Droguet per 7-5 e 6-4 e giocherà oggi contro il cileno Barrios Vera, che ieri ha approfittato del ritiro all'inizio del secondo set del bulgaro Andreev. Tutto pronto a Trieste, davanti a Piazza dell'Unità d'Italia per la prima edizione di Vertigo Cliff Diving, il campionato internazionale di tuffi dalle grandi altezze che entrerà nel vivo questo pomeriggio. 24 gli atleti del Red Bull Cliff Diving, tra i quali i due campioni del mondo in carica, Konstantin Popovici e Rhiannon Infland. La gara inizierà alle 16. Al via la 59esima edizione del rally del Friuli Venezia Giulia, 28esimo rally Alpi Orientali Historic, in programma per questo fine settimana tra le valli del Natisone e del Torre, valido come sesta prova del campionato italiano rally autostoriche. 125 gli iscritti alla competizione, la partenza della gara è da Cividale alle 14.20. Domani su questa frequenza radiofonica, dopo il giornale radio del mattino, andrà in onda la rubrica Vita nei Campi, il nostro approfondimento sul mondo dell'agricoltura. Le anticipazioni. Vita nei Campi, il settimanale radiofonico di agricoltura della nostra redazione, in onda la domenica alle 8.50 su Radio 1 Rai. Domani in apertura un'esperienza di affinamento del vino sottoterra, unito ad un'iniziativa solidale. A seguire, per la lettura dei corsivi di Licio Damiani, quello intitolato L'issopo biblico e l'elicriso selvaggio. Nella rubrica del bio, piccolo vademecum per la produzione casalinga del compost. E ancora, nella rubrica del vino, la fase della pressatura delle vinacce fermentate. Per i grandi alberi il maestoso abete bianco di Cava del Predil, e gli americani ancora non esistevano, ma in Friuli già si mangiava il popcorn che qui si chiamava Sioris. In conclusione, andamento dei mercati agricoli, previsioni del tempo, il proverbio friulano della settimana. Appuntamento domani alle 8.50 su Radio 1 Rai con Vita nei Campi. Udine, Armando Mucchino, TGR Friuli Venezia Giulia. Sono le 12.53 minuti e 30 secondi. L'assistenza tecnica è stata curata da Andrea Fontanot e da Federico Comar. Ha collaborato in redazione Laura Sarasini. La nostra informazione torna in TV col telegiornale in onda su Rai 3 alle 14 e alla radio col GR delle 14.30, l'orario del sabato, su questa frequenza. Grazie della cortese attenzione da Dario Ronzoni e da Antonio Cagliazza. Buon pomeriggio e a sentirci. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.